fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Lo faremo anche questa sera, quello di raccontarsi, di raccontare, è ormai il nostro tratto distintivo. Buonasera a tutti da Risto Radio Convento, buonasera da Master Nick, già in dolce compagnia da questi primi interventi con il nostro Alex Angioletti che, come dire, spalla sempre gradita e fidata nella nostra programmazione radiofonica. Questo è un altro sabato Dinner and Dance che sta per cominciare, questa è un'altra serata di festa che noi del convento, insomma, vogliamo vivere insieme a voi, ma soprattutto vogliamo cercare di farvi vivere live attraverso la nostra radio, i nostri suoni, le nostre immagini. Seguiteci, seguiteci oltre che via webcam anche sui social, Instagram e Facebook. Stiamo cercando anche di, come dire, implementare la nostra presenza lì per farci conoscere sempre di più. Dicevo, Alex Angioletti, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie anche a te per la presentazione illustre anche del programma, che insomma noi curiamo questi 30 minuti per raccontarci di tanto e nulla sì, perché noi partiamo appunto senza un palinsesto così. Sì, e poi vediamo strada facendo che succede. Quello che è sempre centrale, al di là, ecco, torno a dire, della tua presenza qui anche questa sera, a mettere i dischi ovviamente, a farci ballare tutta la notte, è la centralità che noi diamo sempre ai nostri ospiti, ai nostri festeggiati. Anche questa sera vado così a random, 3/18, una classe del 50esimo, un aziendale, 4-5 celibati di cui uno arriva da Venezia addirittura. Bellissimo. Poi abbiamo anche qui 3-4 nubilati, insomma, tanta carne al fuoco. Perfetto, in effetti sì, siamo sempre in buona compagnia e anche di nuova compagnia, perché in effetti noi ogni settimana non sappiamo mai chi arriva, da dove arriva e perché arriva. Assolutamente, sono d'accordo. È, come dire, difficile creare una sorta di relazione, rapporto con chi viene a trovarci, proprio per questo motivo, perché sono estranei nel senso buono del termine, che poi fondamentalmente rivediamo pochissime volte nell'arco delle nostre feste, ma in questo micro mondo, in questo micro spazio, si riesce veramente quasi a diventare amici. È questa la magia del convento. Ma attenzione, volevo sottolineare e evidenziare una cosa, che quando tornano invece, dopo la prima volta, si fanno anche ricordare. Sì, è vero. Perché vengono e appunto ci prendono un attimo da parte e dicono: ma ti ricordi di noi? Noi siamo un gruppo, siamo venuti già, abbiamo fatto la festa. No, ci tengono. Questo è importante. Però diciamo che, come fa la Maionchi, che bello sentirti parlare, però non ricordare chi cazzo sei. Capito? Sì, a volte no, invece a volte qualche collegamento si riesce a fare. Dicevo che però per la maggior parte dei casi sono persone che si vedono solo una volta, quindi è anche difficile creare un rapporto, no? Una specie di amicizia, però brevissima, però riusciamo. Si fidano, riusciamo, questa si è proprio la magia del nostro posto. Sì, perché insomma, già dal sorriso, il benvenuto, quello che non manca mai, d'altronde spontaneo non è costruito, perché noi non siamo qui per caso, ecco. Siamo stati scelti per una missione, che è quella del divertentismo. La grande missione del divertentismo. Bravissimo, è appunto del sabato Dinner Dance, che ovviamente viene un po', insomma, trasportata come un'esperienza di villaggio turistico, ok, con una proforma di animazione, di contatto, insomma, di pubbliche relazioni, non pesantissime, ecco, devo dire la verità, perché i nostri ospiti stanno, ecco, mangiando tranquillamente, godendosi la serata, ascoltando una musica sottofondo, però alla fine ci siamo sempre. Sì, anche perché mi piace sempre dirlo e ricordarlo, nessuno di noi è specificamente, diciamo così, adatto a un ruolo solo, ma facciamo tutto, cioè nessuno di noi fa benissimo una sola cosa, ma sappiamo fare bene tante cose. E questo è, diciamo, la caratteristica del locale stesso. Parliamo del nostro Stefanuccio. Stefanuccio stasera cosa fa? Eh sì, Stefanuccio, che questa sera si è improvvisato, come dire, non tanto butta fuori, ma quanto sicurezza. O almeno piantone. Sì, piantone all'ingresso, perché chiaramente è servita questa necessità, quindi solitamente lo vediamo in vesti di ballerino, animatore, regista. Quello lo farà comunque. Però questa sera, insomma, serviva anche una presenza. Stasera fai casellante. Distinta e elegante all'ingresso, come solo lui sa essere. E di controllo. Abbiamo sfruttato così le sue doti di panca. Perché ci sono voci che dicono che

mia, ragazzi. Si chiamava proprio così, Can't Hold Us. C'erano Macklemore, Ryan Lewis e Dalton, Ray Dalton. Come dicevo in presentazione di canzone, poi magari è sfuggita un po' visto che stava partendo, hanno fatto un album praticamente loro tre, perché Macklemore non si è mai come dire fermato alla sola sua presenza, ma ha sempre chiesto a loro due di partecipare, che poi è un anche qui una cifra stilistica del rap stesso, quella di non essere mai soli ma farsi circondare da tante collaborazioni, ma anche la forma di contrapporsi di stima, ecco. Certo, però è più, come dire, più facile trovarlo nel rap rispetto che nel pop, che succede, succede molto meno spesso. Però la particolarità in questo caso, il pop viene sulla collaborazione per strategia commerciale, esatto, per unire magari due artisti in difficoltà. Peace, che messo lo ricordo, insieme Gamma Style, certo, ha trovato l'acqua calda e sono corsi tutti in Corea a fare il featuring con lui. Però una poi canzone con 50.000 collaboratori, esatto. Alla fine non è così, ha fatto così buco nell'acqua. Però dicevo, al contrario di quello che succede solitamente con rap, cioè che c'è un artista di riferimento e varie collaborazioni, sì, in questo album Macklemore è chiaramente lo scheletro portante di tutto, sì, ma ha sempre chiesto ad Dalton e Ryan Lewis di stare con lui. Okay, particolare, okay. È strano. A proposito, mi viene anche in mente di che è interessante analizzare anche questo aspetto delle coppie, questo aspetto dei duetti. Coppie di effetto? Coppie, no, non solo affettive, ma professionali, perché è interessante capire il perché di alcune scelte, proprio come dicevi prima, anche commerciali, sì, del perché nascano delle coppie, dei gruppi, dei tri, eccetera, eccetera, che spesso però funzionano più del singolo. Non lo so, la prima coppia artistica che ti viene in mente, magari quella a cui tu sei più legato personalmente. Possono essere i Fichi d'India, ad esempio. I Fichi d'India, quindi sul comico. Sul comico, insomma, è una leva fortissima, anche un po' ripetitiva, con dei repertori, che però alla fine è anche molto laboratorio, no? Sì, da palco. Sì. Quindi datemi un argomento, io vi farò lo sketch. E quindi uno piuttosto che l'altro, insomma, si davano, Bruno piuttosto che Max si davano la spalla, uno, esatto, faceva lo scaltro, lo furbo, e l'altro faceva lo scemo. E proprio per il discorso della simbiosi di cui parlavamo poco fa, cioè della forza della coppia rispetto al singolo, sì, quando purtroppo a Bruno è successo, insomma, quello che è capitato, Max non ha più fatto spettacoli e ha sempre cercato c'è nel mondo dell'ambiente, c'è però insomma la sua presenza è diminuita parecchio, ed è sempre stato molto molto vicino all'amico, consapevole e cosciente del fatto che, come dicevi tu, senza, banalmente il paragone col corpo umano è perfetto, senza una spalla non possiamo viverne, ne abbiamo due per quel motivo. Io ad esempio vado sul classico, sul tradizionale, rimanendo sempre in ambito comico, secondo me la coppia per eccellenza sono Staglio e Olio, perché hanno a mio parere creato un genere di comicità che non esisteva, e soprattutto hanno creato un genere di comicità che si distacca da quello che la comicità stessa richiede, cioè la parola, la battuta. Spencer, il trensino. Anche assolutamente. Però ti ripeto, nella mia testa Staglio e Olio non hanno mai parlato nella loro carriera. Pochissimo. No, perché allora allora era questo l'effetto del cinema muto. Certo. Però capisci che la forza della comicità è la battuta, è far ridere, no? Sì. Con la parola. E loro sono riusciti a far ridere semplicemente muovendosi, senza mai, quindi anche scrivere, no, le sceneggiature e i loro pezzi comici, che non era semplice già di suo, però senza usare la parola bisogna avere una forte espressione visiva, e bisogna proprio avere una forte visualizzazione del momento, perché poi insomma io ho visto anche la biografia, mi è piaciuta molto. Infatti ti vedo preparato, mi sento preparato. No, il creatore è Staglio era colui la mente che scriveva tutti i pezzi, però per quello che dicevamo prima, cioè della forte conoscenza reciproca e della forte poteva fidarsi. Lui scriveva esattamente quello che vedeva nel suo compagno, cioè lui sapeva esattamente quello che il suo compagno poteva dare e dove poteva essere forte, perfetto, incisivo, e poteva funzionare, insomma lui la scriveva esattamente in quel modo lì. Poi altra coppia per eccellenza che secondo me ha creato la storia, qui andiamo su Fiction, roba un po' più italiana, Sandra Raimondo, secondo me sono spettacolari. Che noia! Lì hanno veramente portato la quotidianità a livelli eccezionali, hanno veramente esploso la quotidianità portandola sul piccolo schermo. E pensa che ho sentito anche qui un'intervista curiosa: entrambi stavano con un altro compagno, sostanzialmente fidanzati con un'altra persona, si sono visti a una cena, sì, e chiaramente ognuno con i rispettivi, sì, compagni. Raimondo è andato da Sandra e le ha detto: guarda, io t'ho vista e mi sono innamorato di te. Assolutissimamente, un po' come ha fatto Totti quando ha visto Hillary, io questa qui ve la sposo, cioè, e lui ha detto io mi sono innamorato di te da quando t'ho vista, e lei gli ha risposto: guarda che siamo entrambi fidanzati. Rifà: lo so, ma non me ne frega nulla, perché secondo me finiremo insieme. Infatti poi è andata come doveva andare. Volevo approfittare di questo spazio per fare un regalo, vediamo un attimo se la tecnologia ci darà ragione. In questo momento sto registrando, giusto? Siamo in Ristoradio Convento, in diretta dal web, dal lonato di The Guard di Brescia, e si stava parlando di coppie, giusto? Sì, Master Nick, allora approfittiamo coppie anche artistiche, per lavorative e professionali. Perfetto, a me va di ricordare i Badaboom di Palermo, una coppia, fidanzati, lirici, comici, ovviamente ironici, tantissimo, che io apprezzo e stimo tantissimo, e spero di un giorno di incontrare di persone anche per mangiarci un bel cannolo in compagnia. No, bene, bene. Quindi salutiamo il Badaboom. Li salutiamo assolutamente con piacere, e quindi continuiamo, insomma, a vedere la forza e la potenza di una coppia artistica che spesso porta più risultati di una coppia, di un singolo, ecco. Poi c'è anche la difficoltà nel gestire il rapporto stesso all'interno della coppia, perché ovviamente bisogna non andare d'accordo, ma molto molto di più. Continuiamo con la musica in questa serata, in questo sabato sera Convento, Resto Radio Convento con Master Nick e Alex Angeletti ancora per qualche minuto, poi ci lanceremo nel nostro sabato di Dinner and Dance. Intanto Sigala e Ella Eire con Came Here for Love. I'm no longer broken hearted, so glad I came here tonight. And I see you got what I wanted, baby, you got what I like. Out. Siamo tutti qui con le dita a cuoricino, come si usa fare in questo periodo, bello, perché va forte. Che bello. Non è sempre San Valentino, no. Sigala e Ella Eire, Came Here for Love, per questo che avevamo le dita a cuoricino, perché si parla d'amore nonostante, come dire, il campo, la materia sia la dance, perché chiaramente il tappeto musicale è palesemente fortemente dance. Però la canzone potrebbe essere tranquillamente una canzone d'amore. A proposito d'amore, Came Here for Love, che significa sono qui per l'amore, appunto, amore che può vivere varie fasi, no? C'è la fase in cui si conosce una persona, poi c'è il fortissimo, che non è amore, sì, è attrazione, sì, beh, però nel senso si comincia a costruire un qualcosa, no? Poi c'è la prima fase, eventualmente, quando le cose vanno bene, che è un forte innamoramento, poi c'è la stabilizzazione. Ma può essere che anche l'amore finisca. C'è la pazzia pure. Anche la pazzia, ma anche l'amore che finisce per vari motivi. Uno di questi può essere, ad esempio, il tradimento, le corna. O anche finti motivi. Sì, veri o finti. Si può essere di tutto. Però dicevo, uno di questi motivi può essere le corna. Non parliamo di tradimenti, ma volevo parlare di una notizia che ha fatto scalpore. Sì, scalpore. Cosa sta succedendo? Secondo me aveva tutto il motivo di farlo, perché una ragazza abbastanza conosciuta, o meglio io. Ma perché? La conosco poco, perché è un influencer su Instagram, no? Perché sta malata sempre questa. Sì. E anche ex di Fedez, quindi è per quello allora che metti insieme le due cose. E dicevo che come amica di Maria De Filippi. Sì, amica di Maria De Filippi, già vai, funzioni, sei già forte di tuo. Dicevo che lei l'argomento amore, l'argomento corne e tradimenti, l'ha usato a suo vantaggio per scrivere un libro che, guarda un po', è il più venduto in Italia nel 2019. Allora, battuto anche Stephen King. Conosci Stephen King? Ne hai forse sentito parlare? Sì, ce l'ho nella libreria. Ecco, bravo. Un artista come Stephen King, scusami, uno scrittore, una penna come Stephen King, conosciutissimo e insomma fortissimo, battuto da questa Giulia Delellis che non ha scritto il suo libro, perché chiaramente ha avuto una ghostwriter che hanno intervistato tra l'altro in settimana e che spiega come è nata. Si è presa i meriti, giustamente. Si è presa, date a Cesare quel che è di Cesare, e ha raccontato un po' la genesi di questo libro. Non ho capito sinceramente la genesi, da come è nato, da come è funzionato. Non ho capito se la storia sia vera, autoreferenziale, quindi o parli veramente di Giulia oppure parla per Massimi Sistemi. Tant'è che è veramente il libro più venduto ad oggi in Italia. Quindi anche il mercato del libro, non solo quello del cinema, non solo quello della musica, sta cambiando. Certo, perché gli influencer la fanno da padrone. Assolutissimamente, guarda, veramente la gente si sta andando a interessare di cose veramente stranissime. Sì. Persone di altri tempi, a sto punto devo usare un po' il passato, perché la classe 70, 80, 90 già ne stanno sentendo un pochettino la differenza proprio sostanziale di queste scelte, di questi interessi. Oggi i ragazzi, come vedi, dai 20 anni, 18 anni, tutte le ragazze su Instagram, meno male, hanno una fotografia davanti allo specchio del bagno. Sì. Quindi che è un po' il must, con quel famoso culo di gallina, che non è offensivo, è proprio un'impostazione della bocca. Sì, è standard che devi avere questa fotografia, come è standard devi andare a comprare un libro che parla, anzi scritto da qualcun altro, che parla di queste cose qui, perché la gente è curiosa, proprio. Assolutamente, la curiosità la fa la padrone. Come anche un altro esempio che mi viene in mente, anche se qui c'è competenza in materia, professionalità, i libri dei cuochi, degli chef, i cannavacciuolo di turno, i cracco di turno. Ma secondo me sta un po' calando però due o tre anni fa cosa facessero sfornavano libri uno dietro l'altro. C'era, ecco, siamo passati da cuoco a chef, innanzitutto. È vero. Perché c'è stata proprio un'epoca, secondo me, del 90, che i ristoranti, nonché le cucine, anche di un certo livello, non classificavano mai il cuoco chef, era cuoco. Esatto. Adesso è diventato chef, insomma, abbiamo acquistato. E ti dirò di più, faccio un altro piccolo step, perché da chef si è passato anche imprenditore. Perché non sono più chef e basta, anzi leggevo e sentivo dire che quel tipo di chef, quindi torno a dire i vari cannavacciuolo, cracco eccetera eccetera, rarissimamente tipo qualche volta all'anno, non di più, mettono le mani in cucina. Cioè non cucinano neanche più, fanno fare tutto a persone fidate e loro si occupano di fare crescere, tra virgolette, il loro brand, il loro nome e la loro immagine. Attenzione, qua ovviamente ho fonti certe, perché ho visto anche delle foto di un mio carissimo amico che è andato in giro a fare una vacanza e ha conosciuto appunto di persona uno chef, non faccio il nome. Sì. Che appunto, però di questo livello. Non sto nascondendo niente, cioè sostanzialmente è una cosa molto positiva, però voglio solamente raccontare l'idea di questo chef. Praticamente è un giorno con me. ok? Sì, sì, perfetto, sì, tu sì. paghi 140 ho letto anch'io. Cosa vuol dire? È una bella, insomma, una bella location, una bella giornata in compagnia, una serie di passaggi tra la spa, il giardino, tra la passeggiata, il tour, per finire un'esperienza in cucina culinaria. Proprio ti faccio fare l'esperienza con me a fianco, e poi dopo in serata saremo lì a brindare. Beh, è un altro momento, è un altro modo per far crescere, come dicevo, il proprio brand, anche perché la cucina recentemente è cambiata anche dal punto di vista estetico, nel senso che si è proprio dato più importanza al fiorellino, si è data più importanza all'occhio, al dettaglio, al famoso impiattamento, alla famosa presentazione, e anche, diciamo così, non è solo la sostanza che conta, ma anche quello che c'è intorno. La sostanza, anzi, gli chef tendono sempre molto a diminuire quantità. No, aspetta, no, sono contrario, volevo dire la cosa contraria, però non andando incontro. Era, insomma, loro sono più tecnologici, sono scientifici, sono più. No, fisici, la quantità, dicevo, proprio la quantità di cose, cioè fisicamente di cibo nel piatto, diminuisce sempre più, perché si parla di cose più stellate, più ricercate, più delicate. Il famoso gamberetto. Bravo. E basta, e quello è però che paghi. Ma questo gamberetto lo chiamavamo per nome, quindi per questo si trova esatto, su quel piatto. Esatto, perché lo paghi praticamente come un mezzo appartamento. Okay. È quello. A proposito di uno che ha fatto crescere il suo nome bene e è diventato da artista a azienda, perché anche lui, diciamo che si sta muovendo abbastanza bene, è un imprenditore vero e proprio. Parliamo di J-Ax, che andiamo a risentirci con una canzone estiva, che qui non smettiamo di cantare e ballare. Ci beviamo una birra allora. E ci beviamo una birra. Ok, buon ascolto. Parlano di fare la vacanza colta, ma poi alla fine vanno dove c'è gnocca. Sai, la gente quando il sole la scotta, come Peter Pan vuole fotterti l'ombra. Quando penso agli anni passati, noi così proletari, white trash, altro che Bali Bali, sognavamo Bari Bari, why niente? No, fricchettoni sì, racchettoni, gavettoni no, ombrelloni né, mani neanche per gli asciugamani. Invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari. Cosa importa se letti ricoperti di stoffa, musica new wave, gente che sboccia, sembra quei privé da scambi di coppia, ma io sono lo scoglio e tu la mia cozza, tipa col bikini in seta, eccitata per il seta, né da Calcutta Baudelaire, un po' la fa, un po' la dieta suda, le collo il make up a fissare il mio panino allo sfera, tra i maschi lo sport più diffuso sulla spiaggia ancora, trattenere il fiato, tenere dentro la pancia, lui si porta i libri di Kafka, ma poi studia solo ogni culo che passa, cosa importa se finché ho la birra ghiacciata e due fiori dentro la borsa.